Incontri di Gianfranco Fabi. Buongiorno, buon pomeriggio, buona domenica a quanti ci ascoltano. Con questo brano di Mozart, l'avrete riconosciuto, esultate, giubilate, un inno alla gioia, un inno alla vita, un inno in fondo alla felicità, ma un inno anche alla fede. Iniziamo l'incontro di oggi con Angelo Ferro. Buongiorno, buon pomeriggio, professor Ferro. Buon pomeriggio anche a lei, grazie. Angelo Ferro, una lunga carriera, professore universitario, imprenditore, membro di consigli di amministrazione importanti, fondatore dell'Opera Immacolata Concezione di Padova, poi ci spiegherà che cos'è, presidente per 8 anni dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti e adesso un impegno soprattutto dove? Soprattutto in questa iniziativa della Fondazione Opera Immacolata Concezione che mi prende molto perché è il problema di risorse che sono le persone longeve e che hanno davanti spazi di vita e di esperienze da poter trasferire ad altri e che invece sono considerate una minaccia. Ecco, ricordiamo l'Opera Immacolata Concezione è un complesso a Padova in cui nel Veneto sono 9 centri in cui accogliamo sostanzialmente con un criterio di contiguità alla famiglia persone anziane non autosufficienti nell'ambito di contesti in cui non ci sia solo l'aspetto sociosanitario assistenziale, ma ci sia tutta una capacità di queste persone a rendersi, diciamo, utili alla società. Allora, la longevità, questo grande problema per cui oggi abbiamo più del 20% della popolazione oltre i 65 anni e nel 2040 sfioriamo oltre il 40%, è concepita come una minaccia. Noi pensiamo, come un costo. Ecco, noi pensiamo che invece ci siano delle grandi opportunità connesse a questa situazione. E cioè, quando io vado in pensione, ho la possibilità di riprogettare la mia vita. E quindi mi riprogetto in funzione non già di fare sotto traccia, in nero o in modo più dequalificato i lavori che facevo prima, non già di abbandonare tutta un'attività lavorativa per rincorrere aspetti di tempo libero, non già di togliermi le rughe e di sembrare giovane, ma invece di capitalizzare quello che è stato il passaggio di 60 anni o 65 o 70 anni di vita che mi ha consentito di accumulare esperienze e riesco a fare sintesi di queste esperienze, naturalmente accompagnato da persone che aiutano questo aspetto di selezione, di accumulazione e di capacità poi di dare senso, che mi aiutano a dire che cosa è che serve nella vita, che cosa conta nella vita. E arrivato a far questo riesco a esprimere questa mia nuova dimensione, una dimensione quindi antropologica più che professionale, però la esprimo in termini professionali per mettermi vicino ai giovani e sviluppare quella funzione del nonno del cuore che si innamora di propri nipoti, gli vuol bene più che i figli e però è sempre a fianco a loro perché nell'evoluzione delle cose sappiano di avere un punto di riferimento. Ecco, quindi bisogna uscire un po' da una prospettiva puramente di produzione materiale, di produzione di cose e anche di quello che si dice creazione di valore, come si usa a dire nei manuali di management, per entrare in una logica della qualità, delle opportunità. Creare valore sociale, perché questo crea valore sociale. Perché quando io ad un certo momento metto insieme queste persone in contesti in cui vengono e imparano a fare l'educazione stradale. Dove le fa l'educazione stradale che oggi la legge dice per 20 ore fai tu a 13-14 anni 20 ore di educazione stradale? A scuola? E dopo allora prendo il motorino e corro come un pazzo? Se noi la facciamo in un posto dove c'è la pista, dove ci sono quelli della polizia della strada, quelli dei vigili urbani, ma ci sono tutte le altre persone anziane che vogliono bene a questi ragazzi e che dopo stanno là con loro, gli fanno vedere come si attraversa la strada e come si deve rispettare, ma dopo li aiutano a esprimere i loro talenti. Quindi portano un'esperienza e una gioia di vita. E la trasmettono. Ecco, facciamo un passo indietro. Allora, sì. Questa logica del bene comune, lei per 8 anni presidente dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti, come portarla anche a chi produce, a chi ha un'impresa, a chi ha una responsabilità all'interno dell'economia. Allora, noi come imprenditori, la nostra capacità è quella di creare sistema e di guardare dove esistono delle opportunità. Creare sistema con tutte le risorse che abbiamo, anche quelle latenti, e individuare spazi che ancora gli altri non si sono messi per arrivare a fare nicchie. Almeno questa è il medio piccolo imprenditore, ho questa esperienza nel campo delle macchine per l'industria alimentare e con questa mi muovo. Il sviluppare queste opportunità avviene con manifestazioni così di attenzione a certe situazioni. Allora, c'è nelle persone, quando c'è un'imprenditorialità personale, c'è il desiderio che la tua azienda, quello che tu fai, abbia un riconoscimento esterno. Non occorre gli indici della corporate social responsibility. Noi nel territorio sappiamo, certo, se la gente ci apprezza, ci stima, diciamo, ci vuol bene. Ecco. Nel Veneto, dopo la crisi, ci sono stati 25 casi di suicidio. Sì. Per me questo è un dato spaventoso, perché ho capito che allora non è un rapporto giuridico che collega il proprietario con la sua azienda, ma è una proprietà morale che condivide con tutti. E quando questo imprenditore si è trovato, non per incapacità sua, ma davanti ad una crisi che l'ha spiazzato, piuttosto di andare a dire al suo operaio, a quello che in tutti i giorni lo rincontrava, eccetera, o al fornitore, non posso più darti da lavoro, ha preferito togliersi di mezzo. Ecco, questa un po' fa fare un salto di qualità alla stessa immagine dell'imprenditore, che molto spesso è visto come il ricco, come l'evasore fiscale, come lo speculatore. Invece l'impresa italiana, gli imprenditori italiani hanno un'altra realtà, hanno un'altra stoffa. Questi che sono ancora nelle dimensioni dell'impresa personale, che non vuol dire l'artigiano soltanto, ma vuol dire l'imprenditore che sanno che c'è lì, che si è organizzato, quindi imprese con 500 persone, con 1000 persone, ma sanno che c'è. Sanno che c'è un senso di responsabilità che non è lo sfruttamento della proprietà, ma il fatto che quello costituisce leva per altre proprietà. Ecco, allora, questa cosa ti fa pensare. E allora noi da di qua siamo partiti, proprio con l'esperienza del Lucid, a dire, ma come potremmo arrivare, dopo l'enciclica Caritas in Veritate, che ti dice, il profitto è sano. Quindi questo vuol dire che l'impresa ha il primo dovere di fare profitto. Però quando fai profitto cerca di farlo nel durante del processo e cerca di fare in modo che i risultati della distribuzione del profitto pervadano più ambienti. Allora noi eravamo abituati nel rapporto con la Chiesa che venivano a chiederci soldi quando avevano da fare un'opera. Perciò, come dire, il profitto fallo, dopo dammi qualcosa. Non è la strada di due tempi. Qui l'enciclica ci dice devi farlo contemporaneamente. Certo, il profitto è necessario, ma è necessario affiancarlo anche, ecco, con un'operazione, con una logica appunto che porta l'impresa all'interno della società. Perfetto. In tutti i suoi aspetti. Allora, noi abbiamo degli esempi da questa, che abbiamo poi fatto questo discorso delle strategie aziendali per il bene comune. Abbiamo degli esempi. Le dico per esempio un'azienda nel nord Italia che sviluppa impianti di distribuzione della circolazione ferroviaria. Prima aveva degli stabilimenti estesissimi, adesso con le nuove tecnologie ha dovuto ridurli, gli sono rimasti degli spazi vuoti. Essendo una multinazionale, questi spazi vuoti sono stati messi tutti in regola per via di non lasciare là delle cose. Il personale interno dice, ma perché non si potrebbe ospitare qualche piccolo artigiano, qualche cooperativa? E da di là è venuta una catena che ha coinvolto l'amministratore delegato, che è andato a Londra a chiedere il permesso, e l'impresa ha detto va bene, creiamo di fare tutte le cose regolari, e sono entrate nel tempo attraverso questo, anche per un'azione di sinergia di altro personale. Non occorre che tu metti il tuo centralino e una persona lì, rispondo io che ho il centralino della multinazionale, non occorre che tu dai fuori fare le paghe, le faccio io le paghe per la tua piccola azienda, non occorre che tu ti dedichi agli acquisti, perché io con la mia potenza dell'ufficio acquisti posso far comprare meglio le cose che ti servono anche a te. E sono arrivate delle sinergie enormi. Questi energie esempi latenti, certo, ha portato quella che noi diciamo una delocalizzazione all'incontrario, e in 4 anni sono andate 60 posti di lavoro. Probabilmente di esempi di questo tipo ce ne sono molti. Tantissimi. In Italia. Ne Se parleremo potessimo. Anche nella seconda parte del programma. Ringraziamo Angelo Ferro. Incontri. E ancora con queste note di Mozart, un po' l'inno alla gioia di Mozart, riprendiamo il nostro incontro con Angelo Ferro, professore già di politica economica all'Università di Verona, consigliere d'amministrazione del Sole 24 Ore in anni passati, è stato fondatore, ma è presidente dell'Opera dell'Immacolata Concezione, è stato presidente dell'Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti. Parlavamo proprio in conclusione della prima parte di iniziative per il bene comune da parte degli imprenditori. Raccontava appunto di come anche una multinazionale può aprirsi a una logica non solo di impresa che mira il profitto in senso stretto, ma anche di aiuto alla crescita del territorio, alla crescita appunto complessiva. E dicevamo che di esempi di questo tipo ce ne sono molti e magari non escono allo scoperto, non fanno notizia. Se magari appunto attraverso queste trasmissioni, dottor Fabio, riusciamo a fare in modo che altri dicano questo, perché vede, quando si riesce a arrivare a qualche risultato, ci si accorge che questo dà un compattamento del corpo aziendale straordinario, in cui rimane la gerarchia, però tutti si sentono uniti e si raggiungono degli obiettivi che non sono obiettivi di core business, però questi obiettivi trovano sviluppo nell'ambito di energie che c'erano presenti nel core business e che quindi tutto sommato allargano le dimensioni culturali, intellettuali, professionali dei dirigenti, degli operai, eccetera, perché si guardano intorno e vedono quello che possono fare. Certo, è una crescita sociale che aiuta anche l'impresa stessa. E quindi e questo non occorre una motivazione, la motivazione è da tutti che viene fatto degli esempi e ciascuno porta a dire faccio qualcosa. Per esempio, un'altra azienda vende impianti all'estero, la gran parte, il 90% della produzione. Si accorge che nei paesi del Nord Africa l'attenzione alla salvaguardia della salute del lavoratore durante i processi produttivi è zero. Loro fanno degli importano, montano gli impianti perfetti, ma c'è tutta l'altra massa di impianti, per esempio impianti di couscous, in cui le attenzioni alle rotture di mani, al scivolamento di dita, a colpi nella testa, sono praticamente lì a portata di mano. Allora dicono, impresa, qui bisognerebbe fare un'opera di attenzione e di formazione contro questi rischi. Noi parliamo nella nostra commissione interna, parliamo con gli operai e diciamo, facciamo uno sforzo e riduciamo l'assenteismo. Diamo all'impresa una possibilità di presenza maggiore di forza di lavoro, lasciate che questa maggiore presenza vada a noi montatori, andando all'estero per aiutare le altre imprese, con cui non abbiamo nessun rapporto d'affari, però di formarsi per una cultura della tutela del lavoro molto maggiore. Tu impresa sostanzialmente non ci rimetti, pagaci le spese di viaggio, che dopo lì queste aziende ci alloggiano loro. Questa è stata un'altra iniziativa straordinaria partita e oggi con le autorità algerine con cui ci sono stati fatti dei contatti, con le autorità tunisine, viene fuori che in queste 30 imprese che hanno fatto attenzione ai processi di formazione, gli incidenti lavorativi sono diminuiti della metà. E anche questo senza dover fare grandi cose, ma questo per noi è bene comune, perché abbiamo trasferito una cultura. Certo che nel tempo anche l'impresa ha un vantaggio, perché verranno detti questi erano tecnici e quindi un domani ci sarà una cosa, ma è normale, non è che sia una cosa antitetica, che uno non deve farlo per questa cosa qua, ma inizialmente occorre un atto donativo, l'atto donativo delle persone che vanno lì e usano giorni di ferie e recuperi da parte del lavoro, atto donativo invece di vivere e di viaggiare in business class viaggiano in classe economica, invece di stare in alberghi a 4 stelle vanno in ostelli o nelle famiglie di questi, e però tutti sono contenti di aver fatto questa iniziativa. Ecco, è un'economia della gratuità, potremmo dire, che si affianca all'economia del profitto, ma che aiuta la stessa economia del profitto. Ecco, lei pensa che ci siano appunto nella realtà italiana una realtà che per certi aspetti è un po' sconfortante anche a livello di politica economica, di economia, di valorizzazione delle risorse, la possibilità di far crescere queste esperienze? Allora, io dico, la Chiesa fa bene a dire noi ci distinguiamo perché siamo portatori del dono e della gratuità. Io voglio bene a mio fratello non per quello che mi dà in cambio, ma per il fatto stesso di essere mio fratello in quanto figlio dello stesso Dio. Allora, la Chiesa fa bene, ma non può andare oltre. Dobbiamo essere noi a interpretare questo messaggio e a condirlo di cose fattuali, di esperienze concrete. Ma superare lo scambio di equivalenti come dimensione dell'economia a me sembra che sia necessario. Ecco, allora per quello, a mio avviso, la presenza dei vecchi. Certo. Che cosa hanno da scambiare? Hanno pochi soldi perché hanno la pensione, però hanno il dono dell'esperienza. E in un momento in cui i giovani vengono su senza nessun punto di riferimento, perché i genitori sono impegnati a mantenere la loro famiglia, a trovare i mezzi per sbarcare il lunario, come fanno a dedicarsi? La scuola non ha, è impegnata a dare notizie, a dare nozioni, certo, ma non a dare valori. Se noi li affianchiamo, come erano le famiglie patriarcali, a gente che gli vuol bene e che gli aiuta a scoprire i loro talenti all'interno, perché loro hanno fatto questa scoperta di talenti, i vecchi di adesso hanno avuto questa situazione. Ecco, allora noi pensiamo che sia un riprogettarsi degli anziani nel vivere questa esperienza di, diciamo, educatori, ma non nel senso professionale, educatori perché si vuol bene, e quindi capire che c'è una dimensione di gratuità, e nei ragazzi che vedono questa dimensione, ecco, vedono i vecchi. Bisogna dare una speranza ai giovani, perché siamo in una situazione in cui i giovani hanno poche prospettive, hanno difficoltà a entrare nel mondo del lavoro, magari vivono in famiglie separate, e quindi c'è un problema dei giovani. Lei è stato molti anni in università, è stato a contatto con i giovani. Bisogna dare questo messaggio. Bisogna dare questa speranza, e bisogna sostanzialmente dare anche dei contesti dove questa speranza si fa, non solo a parole. Quindi ecco questi centri, io vedo questo centro che noi abbiamo a Padova, che è il più avanzato, in cui vengono da tutte le parti, in cui ci sono l'asilo nido, c'è il museo del giocattolo, vengono le scolaresche per fare questo, ci sarà il pistodromo in cui vengono a fare l'esperienza della scuola, ci saranno gli impianti sportivi, ma non solo per esercitarti nello sport, ma perché lo sport ti dà le regole, cioè lo sport è il mezzo perché tu capisca le regole. E quello è il nuovo modo, inutile dare il codice in mano, è le regole dello sport che ci dicono come ti devi applicare, che c'è il rispetto dell'altro, che c'è il risultato che conta, che c'è l'allenamento e lo sforzo e non c'è la furbizia. Ecco, è un contesto collettivo di educazione che ti fa capire come tutti aspettano da te che dai qualcosa, e loro, gli altri, ti danno anche la gratuità della loro esperienza, della loro vicinanza, del fatto di aiutarti a fare i compiti di dopo scuola, e dopo lì tutti i talenti. Far capire che ognuno di noi può essere imprenditore potenzialmente, non c'è più chi ti dà la fornitura di posti di lavoro, sei te che devi tirarti lì fuori. E allora la musica cosa ti può servire? Ti dà più serenità, ti dà più capacità di distrarti. E allora la telematica, l'informatica, cosa ti può servire? E lì c'hanno delle stanze dove vengono persone anziane, esperte di questo, che gli danno la gioia di sentirsi anche loro utili, e allo stesso tempo questi ragazzi, fino a 14 anni, tutti dicono che è l'età ancora in cui si può recuperare un soggetto. Investiamo su di loro, perché queste saranno le generazioni che si confronteranno con la prima generazione, loro sono la terza o la quarta, quindi quelle generazioni che secondo il proverbio sperperano quello che hanno accumulato, certo. Si confrontano con le prime generazioni indiane e cinesi, e invece vedranno che avranno una capacità anche loro di dare senso alla vita. Quindi una cultura appunto della legalità, sì, una cultura del rispetto, una cultura anche dell'accoglienza, perché poi siamo in una società in cui l'accoglienza ormai, non dico che è doverosa per dover, ma anche per dare una prospettiva alla nostra società. Per il piacere di stare insieme con persone diverse che ti danno spazi, che ti danno stimoli. Cioè il fatto è, questa crisi che è cambiamento chiude degli spazi, ma ne apre tantissimi altri a chi voglia di cimentarsi con il cambiamento. Noi diciamo i longevi sono la forza del futuro, noi li vogliamo considerare motori di ricerca. Non abbiamo la tecnologia della ricerca della Google, ma queste persone preparate diventano motore di ricerca, per cui i ragazzi si affezionano e gli danno tutto quello di scambio che possono dare, per cui loro lo fanno, ma addirittura pagando, certo noi li rimborsiamo le spese di viaggio, eccetera, e c'è la gratuità, e quindi c'è questa dimensione che possiamo sperimentare proprio in questa altrimenti squallida situazione di scambio di equivalenti, e poi i più forti fanno man bassa dei più deboli. Ecco, ma ci può essere anche questa dimensione appunto della partecipazione, della gratuità, della condivisione anche in strutture produttive, ma anche nelle banche, per esempio. Nelle banche, le banche Intesa ha fatto Banca Prossima, come è nata questa cosa qua, cercando di dire la gente che lavorava nella banca e che faceva il volontariato, per dire ti senti di partire qua, quindi cominciando con una base umana a fare. E hanno fatto poi l'associazione Vobis, che sono così come tantissime altre banche. Adesso quando la Caritas si è messa in testa di aiutare in questa crisi le famiglie, per studiare progetti di microcredito da queste persone sono utilizzati tutti gli ex, i pensionati delle banche, che avevano una capacità, che potevano capire se questi progetti, certo, avevano un senso, e quindi di aiutarli di più a formularli, di razionalizzare il loro impegno di inserirsi in questo. Quindi penso che le banche abbiano, sia nella loro capacità di essere sistema, una grande struttura, e nell'aspetto di poter anche, nel momento in cui entrano nell'equity del capitale, far capire a queste società che in cui interviene la banca come mezzo non solo per dare il prestito, ma anche per correre il rischio con loro e per aprirli a nuove prospettive, far capire che anche loro, avendo avuto questa opportunità, forse potrebbero aspirare a vedere anche scenari di bene comune, certo, perché la banca è un soggetto collettivo di impresa. Siamo in conclusione, purtroppo potremmo parlare a lungo di queste cose, concludendo: una grande fiducia nelle persone, una grande fiducia anche nel futuro. Possiamo costruirlo noi se abbiamo questa fiducia, proprio mettendo al centro la persona. Possiamo concludere così, professor Proprio Ferro. Così, e con un'affermazione che secondo me mi convinco sempre di più: con i soldi non si compra lo sviluppo, ma lo sviluppo si compra proprio con l'empatia a questa situazione che è un progresso che non conosciamo, certo, ma che tutti insieme possiamo sono aspirare. I soldi sono migliori. Uno strumento, i sistemi sono uno strumento, il mercato proprio è uno così. Strumento, dobbiamo metterlo al nostro servizio, proprio così, al servizio fare. Della persona. Proprio così, grazie al professor Angelo Ferro di essere stato con noi questa domenica pomeriggio, così come ringrazio Roberto Scaltritti in regia e Luca Cremonese in redazione. Vi ricordo che questo programma può essere riascoltato dal sito www.radio24.it. Grazie e ancora buona domenica.